America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. To the president celebrating as his tax bill cleared a major hurdle. The Senate passing that $1.5 trillion tax overhaul. The vote came just before 2 a.m. The ink was barely dry. Democrats. Riforma fiscale. Beh, è stata approvata sabato mattina, questo lo sapete, con 51 voti a favore, 49 contrari, 51 voti tutti repubblicani e i 49 tutti democratici, tranne uno. Dunque, un paese spaccato attorno a questa riforma che i democratici dicono non aiuta la classe media, toglie servizi sociali importanti. I repubblicani rispondono che non è vero, che questa manovra è una manovra per stimolare l'economia e per portare crescita e occupazione e introiti maggiori per lo Stato. Ecco, questa è la dicotomia di sempre. Da 40 anni l'America dibatte meno Stato, più mercato. E dunque interroghiamoci su questo punto, perché ci riguarda anche direttamente nel momento in cui in Italia in particolare e in Europa avremmo bisogno di stimoli di ogni genere per sostenere questa nostra crescita economica che sta cominciando a manifestarsi. E invece che succede? Che per esempio dalla BCE vengono direttive che sono restrittive, per esempio sulle banche, sui non performing loans, sui prestiti non performanti. Si danno delle indicazioni restrittive che secondo me sono fuori tempo. Aspettiamo che la ripresa si consolidi, poi magari si possono anche prendere delle misure. In America il dibattito è molto diverso, perché qui si sta cercando appunto di continuare a portare avanti l'economia, di farla crescere ulteriormente, di spingerla ancora di più. Questo almeno stanno facendo i repubblicani, anche se devo dire i democratici erano d'accordo sull'idea di una riforma fiscale e avrebbero anche voluto partecipare a questa riforma, ma poi hanno scelto ciascuno di andare per la propria strada. Dunque, il pronostico è difficile. I democratici dicono che questa riforma porterà danno enorme all'economia e alla classe media, i repubblicani dicono il contrario. Questa verifica potremo farla solo ex post, ma se dobbiamo farla ex ante, cioè se dobbiamo invece di aspettare i risultati cercare di anticipare sulla base di quello che ci dice per esempio il mercato, beh, alcuni dati importanti li abbiamo. Perché abbiamo avuto dei record di borsa in questo 2017 di portata storica. Il Dow Jones ha fatto 74 nuovi record a partire dalle elezioni presidenziali del 2016 ad oggi. Ecco, è raro che il mercato sbagli grossolanamente su questioni di questa importanza, che le aspettative su una riforma fiscale abbiano avuto un impatto di borsa senza precedenti in 120 anni, beh, è una garanzia ex ante non trascurabile. Altra garanzia, crescita economica. Siamo in questo momento alla terza crescita più lunga della storia americana, ma io credo che con un anno e mezzo arriveremo ad avere il periodo di crescita più lungo della storia americana. Il record 120 mesi nel periodo di Clinton dal 91 al 2001, l'altro record al secondo posto 106 mesi consecutivi dal 61 al 69, adesso siamo a quota 102 con la fine di dicembre, però come vi dicevo sono quasi sicuro che anche l'economia continuerà a crescere, siamo già nel nono anno di crescita consecutiva. Per la seconda volta in 10 anni l'America si porta in avanti, prende dei rischi, ma nel frattempo crea ricchezza oggi, cose che all'Italia obiettivamente oggi mancano. Che poi questo, oltre ai nostri limiti molto oggettivi ovviamente, sia anche colpa dell'ostinata austerità germanocentrica che domina in qualche modo la filosofia di politica economica europea, beh, devo dire per questo i dati ex post già li abbiamo. Basta che andiamo a vedere qual è stato l'andamento della nostra economia negli ultimi 7-8 anni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, riconosciamo la vittoria a Donald Trump e al Partito Repubblicano. I repubblicani promettevano da sempre questa riforma fiscale, l'hanno avuta adesso. E dunque dei Van Halen, Right Now. Don't wanna wait till tomorrow. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!